Allora ritorniamo in diretta dagli 87.900 di Radio Onda Rossa per parlare, anche se brevemente, insomma, di un'altra vicenda. Ci spostiamo in zona est, Torpignattara, Quadraro, perché insomma la speculazione avanza, la cementificazione avanza nella nostra città. Sembra incredibile, ma anche all'interno, insomma, delle zone più densamente abitate e costruite di Roma continuano i progetti di speculazione. Siamo collegati telefonicamente con un compagno dell'Orto Insorto. Ciao, buongiorno. Ciao. Allora, ci puoi riepilogare, insomma, quali sono diciamo i progetti che purtroppo si annunciano come possibili, insomma, nel territorio Torpignattara Quadraro, e anche gli appuntamenti che ci stanno per organizzarsi, evidentemente discuterne e rispondere a questo attacco? Allora, diciamo che l'aria è che dove c'è un pezzo di verde ci sono mire, e col piano casa che è stato approvato e che entrerà, ma inizierà a macinare, diciamo, metri cubi nei prossimi giorni, perché c'è una scadenza proprio tecnica il 31 gennaio per dire su quale zone non applicarlo, ma immaginiamo che il Comune di Roma non è che se ne importerà troppo, e praticamente da quel momento scatterà proprio una richiesta di cambi di destinazione d'uso di vecchi casali, di vecchi magazzini, per diventare nuove palazzine di fondo. E in più ci sono pezzi di verde dove ci sono speculazioni in parte già iniziate, dicendo che stanno a fare parcheggi o stanno facendo scavi archeologici per un domani, e il domani sanno che questo piano casa che viene approvato. In più, di già sicuro, c'è un qualcosa che viene dagli anni 90, dall'epoca dei Rutelli praticamente, che ha a che fare col piano di riqualificazione del Quadraro, che pensa sono degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che sono stati decisi all'improvviso a dicembre, ricicciato fuori un bando che è velocemente stato vinto dalla CCC, che è una grossissima cooperativa che tra l'altro è implicata anche nella questione delle tangenti dell'alta velocità Bologna-Firenze, per capirsi il livello, e quelli sono 108 alloggi del comune, quello è già sicuro. Il resto sono, diciamo, sensazioni che abbiamo noi sul territorio, avendo visto da luglio, maggio, giugno, luglio, cioè da quando si è iniziato a parlare del piano casa, sono iniziati tutta una serie di scavi nel territorio che sono per adesso, mentre nominalmente sono degli scavi archeologici, che è il primo passo per poter costruire un qualcosa, e quindi aspettano questa grande ondata di speculazione che partirà con questo piano casa di fondo. Il quartiere invece del territorio, tra l'altro, allora, da una parte ci stanno, diciamo, il punto quello individuato per queste case di edilizia residenziale pubblica è il punto vicino agli sfasci tra, diciamo, tra l'ex aeroporto Celler, Quadraro e Vigne. È un qualcosa che probabilmente ci metteranno un po' di tempo, perché gli sfasci sono ancora lì, però il bando è stato approvato ed è stato vinto da questa cooperativa molto grossa e molto impicciarola, diciamo, visto che sto sui giornali, che sono indagati per tangenti, eccetera, eccetera, sta gente. Beh, lavorano all'alta velocità, che è una cosa grossa. Il resto c'è, sono sia pezzi di verde un po' abbandonati, che sono da decenni, anni, comprati da privati in attesa di speculazione, messi già sui loro bilanci come beni che piano piano si stanno rivalutando, e dall'altra parte c'è un altro volano della speculazione, che è il tracciato della linea C, che casualmente fu fatto passare proprio in mezzo a un pezzo di verde invece che farlo passare dove vivono le persone. Quella è una fermata dopo Piazza Malatesta che va verso Centocelle, e lì pure ci sarà probabilmente una vostra speculazione, perché già ci stanno vari pescecani che su quei terreni vorrebbero costruire nuove case vicino al metro per vendere a prezzi esorbitanti. Insomma, tutto questo in un quartiere densamente popolato, densamente abitato, e dove peraltro ultimamente ci siamo occupati di, siamo mobilitati intorno a un cantiere che sta proprio al centro della Maranella, cioè che è un punto che sta a via Perestrello, dove c'è una densità che è incredibile abitativa, e le voci sono che il progetto che avrebbero sono di fare una palazzina di 7 piani, tra l'altro già si stanno a vendere le case prima di avere autorizzazioni definitive e tutto, perché il piano casa ancora non c'è. Adesso tecnicamente pare che dovrebbero poter fare solo un parcheggio interrato, cioè una cosa che apparentemente possono già fare con le normative, però di fatto stanno a vedere cosa possono fare, quanto possono scavare. Tra l'altro è anche una zona geologicamente un po' problematica, quando c'è stata l'ultima alluvione si è tutto allagato, mentre vorrebbero fare una palazzina settimana proprio dove stava la Maranella, quella del film d'Alberto Sordi, per capirsi. No, volevo dove non è un caso che fino adesso proprio lì non si era costruito, probabilmente, perché come hanno provato a fare degli scavi ha sgorgato l'acqua, perché l'acqua pubblicante c'è pure un motivo il nome. Però questi non guardano in faccia a nessuno, perché oramai vediamo le case, quelle che sta a fare Cartagirone a casa Albertone, le presentano come case nel nuovo centro di Roma, per cui con i prezzi relativi a quello che è il nuovo centro di Roma, perché purtroppo con l'ingrossamento della metropoli è sempre più evidente il processo di gentrificazione di quelle che erano una volta periferie estreme, ma che adesso mentre stanno ai margini del centro. No, volevo dire, se me lo fai dire però, che il quartiere comunque è un quartiere in cui i bisogni sociali sono fortemente presenti, non è che non ci sia bisogno, diciamo, di affitti accessibili, prezzi popolari per le case, quantunque peraltro si tratta di un quartiere a forte composizione immigrata. Certo, non è quello, insomma, il modo per sistemare tutte queste necessità e questi bisogni. No, sì, no, no, ma noi non è nella propaganda che stiamo facendo nel territorio, cioè proviamo anche a fare un discorso altro, che non è soltanto il non cemento, ma anche comunque a indicare la speculazione dove si annida, cioè si annida in tutte le case sfitte, tenute sfitte e non vendute per aumentare i prezzi, sta in un mercato della casa che è stato deregolamentizzato tutto totalmente una decina d'anni fa con la nuova legge sugli affitti, sta in quello poter dare nuove case, diciamo. No, certo. Non nel pensare di costruire su un territorio che, se andiamo a vedere le statistiche, se fosse un comune d'Orpignattare, il stesso municipio di Roma, sarebbe il 30° comune d'Italia, ma come densità il primo, superando Portici. A livello europeo sta tipo giusto Monte Carlo, sta a livello di densità abitativa di Orpignattare. Quindi pensare di costruire un territorio del genere è criminale. È un territorio, tra l'altro, che ha fortissimo inquinamento atmosferico, perché è di transito di macchine, quindi i livelli sono tra i più alti di Roma, c'ha pochissimo verde pubblico per abitante, il livello più basso di Roma, per cui c'è tutta una serie di dati e di statistiche che veramente è folle voler pensare di costruire là, ma questi non guardano in faccia a nessuno, ovviamente. Senti, qual è la molteplicità di forze che si sta cercando di radunare proprio per opporsi a tutta questa questione? Diciamo che c'è questa situazione territoriale che è abbastanza variegata, che è l'orto insorto, che sta facendo un invito proprio per questa assemblea che ci sarà venerdì pomeriggio alle 18 presso la sala consigliare del stesso municipio, che è a Piazza della Maranella, praticamente, inizio via dell'acqua pubblicata, al numero 2. Per cui l'appello che facciamo anche ad altri cittadini, persone, associazioni del territorio che si vogliono confrontare per pensare cosa poter fare per dare una resistenza a questo processo di speculazione in atto sul territorio, questo, cioè, è un momento di confronto che vuole proprio permettere questo anche. Va bene, quindi diciamo che è uno dei primi momenti di confronto pubblico a cui si spera parteciperà, insomma, la popolazione del quartiere. Sì, la speranza è sempre quella. Perfetto, d'accordo, va bene, allora magari ci risentiamo dopo che si è svolto questo momento pubblico di discussione per valutare insieme le iniziative che si decideranno di fare. Peraltro noi adesso chiudiamo con te, ma riapriamo il discorso di speculazione nel sesto municipio, quindi nella zona comunque lì confinante, proprio perché rispetto al piano casa, le mire e le cose che si stanno, diciamo, annunciando sotto banco sono diverse, per cui sì, sono tantissime in tutti i territori di Roma. Esatto. Cioè, adesso noi stiamo vedendo quello che è il nostro territorio, ma girandosene un po' per la città si vedono già comunque delle persone che si stanno attivando, ma perché probabilmente proprio ovunque dove c'è un pezzo di terra stanno a pensare di fare una speculazione, da ridosso della stazione di Burtina ad arrivare ai bordi del raccordo che è Torre Maura, comunque vedo mobilitazioni per cantieri che stanno nascendo proprio a ridosso di questa speculazione del piano casa. E quindi sarà anche il caso, insomma, in atto, ma questo è proprio un via libera a tutti. Sarà anche il caso dunque di mettersi in marcia insieme e cercare laddove è possibile di cogliere insomma possibilità di dialogo, affinità, affinché un discorso sia lanciato in più quartieri, no? Eh certo. Va bene, grazie Alfonso, ci sentiamo presto. Ciao. Ciao, ciao.